bisognerà crescere un po' con le tasse e poi bisognerà affrontare la questione spinosa delle spese sanitarie che sono abbastanza fuori controllo e che si prevede che aumentino nel lungo periodo. L'accordo che è stato fatto adesso non mi sembra onestamente che faccia molto. Ed è tutto per questa puntata di Economia in Europa. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.